Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, frauen, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves. Ciao a tutte, oggi parleremo di stereotipi femminili nel dating online. Le donne italiane su Meeting, di Giovanna Cosenza, estratto dal volume Tecnologie di genere, teoria, usi e pratiche di donne nella rete, a cura di Cristina De Maria e Patrizia Violi, pubblicato da Bononia University Press nel 2008. Giovanna Cosenza è professore associato presso il Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell'Università di Bologna. Insegna semiotica, semiotica dei nuovi media e semiotica dei consumi. Cristina De Maria è ricercatrice di semiotica presso il Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell'Università di Bologna, è docente di diversi corsi presso la stessa università. Patrizia Violi è professore ordinario di semiotica presso il Dipartimento Discipline della Comunicazione dell'Università di Bologna, è coordinatrice del dottorato in semiotica e vicepresidente della Scuola Superiore di Studi Umanistici di Bologna ed è coordinatrice del dottorato di discipline semiotiche, Istituto Italiano Scienze Umane e dell'Università di Bologna. Il libro è un insieme di saggi che affrontano i diversi aspetti del rapporto tra genere e tecnologie. Quindi il tema della rappresentazione e dell'autorappresentazione, le differenze di genere nell'accesso e nell'uso delle tecnologie, la non neutralità della tecnologia. Si parla poi di esperienze di donne nel web e lo fa rendendo conto della complessità e contraddittorietà di questo rapporto, della convivenza di vecchi e nuovi sistemi di rappresentazione e interpretazione e suggerendo azioni che favoriscono un uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Giovanna Cosenza, in questa ricerca, usa l'osservazione semiotica partecipante, cioè pratica in prima persona un ambiente di comunicazione online, in questo caso Meetic, iscrivendosi sia come donna che cerca uomo che come uomo che cerca donna. Partendo quindi dai concetti orientativi di Bloomer, per avvicinarsi alla realtà empirica, Cosenza cerca di tracciare delle linee guida per avvicinarsi alla realtà di Meetic. Memories that go bringing you back again, hurting me more and more. Maybe it's my mistake to show this love I feel inside, 'cause each day that passes by, you got me never knowing if I'm coming or going. But I love you, so I haunt you, darling, as I weep for you. I love you. Yes, I do. Meetic è un sito di appuntamenti online in cui persone eterosessuali possono incontrarsi, conoscersi, condividere interessi per poi incontrarsi di persona e iniziare eventualmente una relazione sentimentale. Da qui il nome in inglese dating online, la pratica cioè di conoscersi e darsi appuntamento online. Per iscriversi a Meeting è necessario inserire i propri dati in un'interfaccia, in altre parole una scheda online che l'utente deve compilare con i suoi dati anagrafici, lo stato civile, indicando se ha figli o meno o se desidera averne, indicando la professione che svolge, il titolo di studio, l'eventuale credo o pratica religiosa che segue e informazioni rispetto alle caratteristiche personali del partner ideale che si vorrebbe incontrare. Da una prima analisi dell'interfaccia, l'autrice evidenzia gli stereotipi diretti alle donne, di cui si nutre peraltro il web a livello generale. Per stereotipo intendiamo ovviamente quell'insieme di idee, caratteristiche o valori che la maggior parte delle persone attribuisce ad un gruppo sociale specifico, in questo caso le donne, in conformità a credenze o condizionamenti acquisiti dalla cultura in modo acritico e che formano la base su cui si fondano i pregiudizi. Questi ultimi sono giudizi negativi, in questo caso riferiti ad una categoria sociale da sempre ritenuta biologicamente marginale e in molti casi accessoria come quella delle donne. Un aspetto singolare di Meetic è il fatto che le donne italiane possono accedere gratuitamente a tutti i canali del sito, diversamente dagli uomini che devono pagare per gli stessi servizi 30 euro al mese. Ricorda molto le promozioni che spesso fanno le discoteche con entrata libera per le donne accompagnate da uomini. Viene da chiedersi il perché di questa decisione. La possibile teoria è che le donne siano usate come specchietti per le allodole per attirare uomini. O forse, semplicemente, perché le donne non sarebbero disposte a pagare tale cifra per incontrare uomini su internet. Cosenza fa notare innanzitutto le voci del profilo in cui, come abbiamo già detto, si richiede all'utente di inserire il sesso, il proprio sesso e quello del partner ideali, con frasi del tipo donna cerca uomo oppure uomo cerca donna, voci ovviamente rivolte esclusivamente ad un pubblico eterosessuale. E la scheda richiede inoltre di inserire i soliti tre dati su cui si basa il concetto che è tutto occidentale dell'identità delle persone, cioè sesso, età e luogo di provenienza. Le voci che le donne possono scegliere di inserire nel loro profilo sono varie, ma sono prevalentemente legati agli stereotipi femminili dell'amore romantico che fa l'occhiolino al suo presunto coronamento, il classico matrimonio. In sintesi, le donne possono scegliere, ad esempio, tra le diverse caratteristiche disponibili dell'interfaccia, se definirsi, ad esempio, come romantiche e in tal caso, nel caso scegliessero questa voce, possono scegliere tra voci del tipo sono romantica, abbastanza romantica, poco romantica, non lo dico. E invece nel caso del matrimonio non se ne parla proprio. Tutti escamotage che, sebbene permettano all'utente di eludere la domanda originale su sesso e matrimonio, nel caso in cui queste decidessero di non rispondere, non tolgono il fatto che effettivamente sia stata posta, come fa a notare Cosenza, come se ovviamente sapere questo fosse imprescindibile per conoscere qualsiasi persona. Anche Facebook, a ben vedere, presenta tra le voci del profilo quella di sono donna oppure sono uomo e mi piacciono uomini oppure mi piacciono donne. Prima che la struttura del network cambiasse qualche mese fa, io stessa ricordo che c'era ancora una voce come ufficialmente sposata o sposato con, una roba alquanto antiquata per un social network che, dicono, ha rivoluzionato il modo di comunicare. Insomma, pare che neanche sul web ci sia scampo da un'impostazione eterosessista e stereotipata dei rapporti tra i generi. Sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see. Time that a man goes phone hanging around my neck, see. But it looks like I break my back, see. I gotta say what I feel for. Sia Mythic che gli altri social networks non si discostano dalla visione stereotipata del concetto di matrimonio e della loro promessa di felicità, così come è stato da sempre descritto attraverso le parole e attraverso l'interpretazione che gli uomini ne hanno dato. Il corollario teorico su cui si basano i social networks, sebbene promettono alle donne di creare liberamente e coscientemente la loro identità virtuale, è ovviamente il solito concetto di matrimonio, ma inteso nella definizione che ne dà lo psicologo americano Nathaniel Branden. Il matrimonio, secondo lui, sarebbe un appassionato legame di attaccamento tra un uomo e una donna che è nello stesso tempo spirituale, emotivo e sessuale e riflette un'alta stima reciproca. Il sito italiano, che ora conta migliaia di utenti in tutto il mondo, si ispira in tutto e per tutto all'amore romantico, al concetto dell'anima gemella e della complementarietà eterosessuale, una rappresentazione molto tradizionale delle relazioni amorose, ed è accompagnato da foto esplicite che rappresentano donne e uomini romanticamente allacciati, immagini d'unione riprodotta perfino nel logo, un cuore formato da due stringhe che si uniscono. Le foto che compongono le varie sezioni del sito hanno un chiaro intento rassicurante e persuasivo. Nella sezione controllo e sicurezza, ad esempio, che spiega la modalità di controllo di Mythic sui contenuti e messaggi postati sul sito dagli utenti, compare la foto di una donna teneramente abbracciata a un uomo più alto e più robusto di lei, tra le cui braccia lei appare, di fatto, molto rassicurata. Nell'home page, alla voce «Chi è Mythic?», compare il volto di una donna in primo piano che appoggia la testa sulla spalla di un uomo, di cui si vedono i capelli, ma non si vede il volto. Di certo non ci vuole tanta immaginazione per capire a quali utenti si rivolge prevalentemente Mythic. A testimonianza della validità delle esperienze che gli utenti possono fare su Mythic, c'è la pagina delle testimonianze, in cui ci sono le storie delle coppie che si sono riconosciute sul sito. Ad esempio c'è la storia di Barbara e Christian, lei di Milano, lui di Biella, e del loro colpo di fulmine. Dopo essersi scelti, grazie alle foto postate da entrambi sul sito, dopo un mese si sono incontrati e poi si sono messi insieme. C'è anche la testimonianza di quelli che alla fine si sono sposati. Insomma, il sito pubblicizza i suoi servizi servendosi delle testimonianze reali, o presunte tali, di persone che si sono incontrate e si sono piaciute. Il tutto condito con i soliti stereotipi cari alla tradizione amorosa, l'anima gemella, il matrimonio e il classico colpo di fulmine. La cosa snervante è che Mythic, proponendosi come un sito di dating online e ricorrendo alle modalità di interazione della rete, modalità che si considerano oggi l'anima dei social networks e il simbolo della rivoluzione tecnologica attualmente in voga, non fa altro che riproporre alle donne, in una dimensione virtuale, l'equazione solita di sesso, matrimonio, amore uguale felicità. E onestamente non mi pare che ci troviamo di fronte ad una rivoluzione, virtuale o culturale che sia. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city, on a day which is every day, I picked up a magazine, which is every magazine. I read a story, then I forgot it right away. And they say goldfish have no memory. I guess their lives are much like mine. And the little plastic castle is a surprise every time. And it's hard to say if they're happy, but they don't seem much to mind. Yeah! From the shape of your shaved head, I recognized your silhouette as you walked out of the sun and sat down. And the sight of your sleepy smile eclipsed all the other people as they paused to sneer at the two girls from out of town. Morning, you are by far the cutest, but be careful getting coffee. I think these people wanna shoot us, or maybe there's some kind of local competition here to see who can be the rudest. Declining mind, like what I happen to be wearing the day that someone takes a picture is my new statement for all of womankind. And I wish they could see us now in leather bras and rubber shorts, like some ridiculous new team uniform for some ridiculous new sport. Quick, someone call the girl police and file a report. Giovanna Cosenza descrive i diversi ruoli che ha individuato in Meeting tramite i messaggi: la romantica, l'emotiva sensoriale, la semplice sincera, la decisa, la cerco amici e poi chissà, la delusa, l'originale. Iniziamo a vedere il ruolo della romantica. Questo è un esempio di un annuncio. F dice: nella vita ho tutto o quasi. Vorrei tanto un uomo speciale che la rendesse completa, unica e più felice. Mi piacerebbe incontrare un vero uomo, forte, romantico, capace di rendere le cose semplici della vita, delle magiche emozioni. Vorrei che vivesse con l'unico scopo di rendermi felice, perché è quello che farei io, vivrei con lui e per lui. Capire l'importanza dell'amore nella vita di tutti i giorni porta a respirare la vera essenza dell'esistere. Cerco te e nessun altro. Il leitmotiv di questi annunci è, dice l'autrice, la classica visione romantica in cui il sesso e l'amore sono necessariamente associati l'uno all'altro e mai disgiunti. Le donne romantiche non contemplano e anzi rifuggono da quelle che considerano sterili relazioni sessuali senza spessore e magia. Insomma, quello che dicono le donne romantiche su Meeting è niente sesso senza amore. Quante volte ti ho aspettato, abbracciato al mio cuscino, quante volte ti ho cercato, dopo il tuo telefonino. Perché te l'hai chiamato, non è disponibile. Ok. Perché te l'hai chiamato, è occupato. Ai tempi di Sex and the City, questa ingenua distinzione potrebbe sembrare un po' démodée, o forse fatta contraltare alla visione di quelle che valutano la propria libertà in maniera direttamente proporzionale alla quantità di rapporti sessuali che riescono a collezionare? Ma passiamo ora all'emotiva sensoriale, che ambisce alla fusione sensoriale ed emotiva con il partner e che descrive nel suo annuncio situazioni in cui gli elementi naturalistici e sensibili hanno un ruolo centrale. Quadretti idilliaci, dice Giovanna Cosenza, dai quali dovrebbe nascere l'agognata simbiosi amorosa. N dice: tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono chiuse, filtrano appena. Solo l'amore, come lo percepisco io, ha il potere di spalancarle tutte insieme di colpo, così, come una raffica di vento. P dice: la vita non si misura con la quantità dei respiri, ma con i momenti che te lo hanno tolto. C'è poi la semplice sincera, che combina la sua sincerità con l'idea che quest'ultima porti con sé una semplicità di pensieri e sentimenti, e che le menzogne siano delle persone complicate, poco dirette e quindi non sincere. L'aggettivo solare viene usato diverse volte in questi annunci, evidentemente proprio a simboleggiare la limpidezza e la semplicità. F dice: sono una ragazza molto sensibile e sincera. Non mi piacciono le prese in giro di nessun genere. Sono una persona solare, sorridente. Vorrei incontrare una persona che mi capisca e che mi accetti così come sono, con pregi e difetti. Odio la falsità e l'ipocrisia delle persone. Sono socievole e molte volte un po' timida, ma mi succede con le persone che mi interessano veramente e all'inizio di un rapporto nuovo. Poi riesco a comunicare quello che sento e provo con più tranquillità. Nel complesso mi reputo e mi reputano una persona interessante. Oppure R, che scrive: la vita è già tanto complessa. Vorrei pensare a questo come a un gioco. Non un gioco in cui nascondersi, ma un gioco con cui crescere, con cui valutare la possibilità di conoscere delle persone interessanti in un luogo virtuale, ma non poi tanto diverso da quello reale. You leave your heart I said I know that you got another woman somewhere around. But hey, I'm a good woman. Don't treat me like dirt. Oh, listen here, I don't go nowhere. You know you don't even take me out if I put on my dress, baby. All you wanna do is start a fight. But even my next door neighbor, y'all know the shape I'm in. They're all around there talking. But you know what I'm gonna do? I'm gonna move away from here. Lord, I ain't gonna return anymore. Such a good woman. Such a good woman. Such a good woman. Such a good woman. You know what I'm gonna do? I'm gonna move away from here. Ma veniamo ora alla decisa. La decisa è una donna che sa quello che vuole e lo dice chiaramente, condendo la sua chiarezza con un po' di aggressività. Per esempio, R dice: scopritemi e vedrete come sono. Non posso descrivermi. Un bacio a tutti. Non rispondo a gente volgare e maleducata e non mi interessa di essere contattata da gente senza foto. Quindi no foto, no party. Se non hai la foto, non perdere tempo, non valuterò nessun invito senza foto. L invece ricorre risolutamente ad una elencazione di caratteristiche sue e di quelle desiderate. Vediamo di esaurire le domande che mi vengono poste nella stragrande maggioranza dei casi. 1. Mi chiamo L. 2. Non cerco nulla. 3. Lavoro, come tanti su questo pianeta. 4. Chiedermi che lavoro svolgo quando chatto mi dà l'impressione di stare stilando un curriculum vitae. Se questa domanda sorge spontaneamente per capire se c'è una donna che vuole farsi mantenere, beh, tranquilli, sono una economicamente autosufficiente. 5. Non esco con nessuno dopo 30 righe di conoscenza. 6. Nel profilo c'è scritto che non ho bambini, ma vivo in condivisione, puntini puntini. Certo, ho due figli grandi e non sono bambini. 7. Metto in lista nera quelli che sono sposati, fidanzati e accompagnati, ma nella maggioranza dei casi di chi si dichiara libero e non lo è, solitamente riesco a sgamarli. Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi Donatella. Oh, oh, oh, oh, bella. Oh, ah, oh. C'è poi La cerco amici e poi chissà, che ci tiene a precisare di essersi iscritta a Mythic per trovare amici e non per amore o sesso, anche se alcune delle cerco amici e poi chissà non lo escludono come possibilità. Sono insomma possibiliste, nella vita non si sa mai. Ci dice: sono una persona calma, divertente, simpatica, dolce e sincera, con un carattere forte. Mi piace molto il mare, viaggiare, leggere e conoscere gente nuova. Ma se non vuoi una vera amicizia, non contattarmi. A presto. F dice: le amicizie sono quelle che contano più che il resto. Dopo poi chi lo sa. Giovanna Cosenza continua poi con la delusa. Le deluse sono donne che dichiarano di aver vissuto esperienze passate negative, che talvolta raccontano, dalle quali sono state segnate e che le hanno rese scettiche rispetto alla possibilità di trovare qualcuno su Mythic. Gli annunci della delusa sono in genere più lunghi, devono raccontare le loro esperienze negative cercando di essere comunque gradevoli. Come fa per esempio S. Ciao a tutti, è da tanto che sono iscritta a Mythic, ma pur avendo avuto fino adesso incontri deludenti, sono un inguaribile ottimista e ci resto per un altro po'. Anche se abitata in Piazza della Signoria o lungo il Canal Grande, non chiedetemi di passare dalle vostre parti. Non cerco luoghi dove passare le vacanze. Mi piacerebbe invece incontrare un uomo di età non superiore alla mia, con i capelli possibilmente ancora esistenti, che dopo aver vissuto tutte le esperienze possibili abbia voglia di fermarsi. Anche se per ragioni logistiche tutti vorremmo incontrare persone geograficamente a noi vicine, a volte le persone che più ci piacciono sono lontane. Ecco, a tal proposito vi prego, non scrivetemi se girate normalmente l'Italia in lungo e in largo per lavoro, se amate viaggi, se siete stati in Messico, Australia, Thailandia, Perù, Paupasia, eccetera. Ma poi per prendere un aereo per Palermo, per conoscere non una sgallettata qualunque, ma una donna vera, vi fate mille problemi. Da parte mia, se dovessi incontrare l'uomo della mia vita, sarei disposta a trasferirmi stabilmente ovunque, da Lampedusa al Trentino. Scusate se è poco. C'è poi l'originale, non poteva mancare l'originale. L'originale non vuole passare inosservata, vuole emergere sorprendendo con la sua peculiarità. Come fa per esempio A. Chi arde non ardisce, chi ardisce non arde. Spiegarlo a parole è difficile, ma di persona... Oppure B. Cosa dovrei scrivere qua? Tanto negli annunci siamo tutti belli, bravi, simpatici, eccetera, eccetera. Se vuoi sapere come sono io, contattami. Diversa e più articolata è invece A, che combina il ruolo della romantica e della semplice sincera, pur volendo rimanere originale. Dice infatti: il destino mi ha portato in un paese lontano da quello mio e non importa il motivo, perché vuol dire che devo cominciare a creare la mia vita qui, ma questo non vuole dire che vorrei trovare chiunque tanto per sistemarmi, no e no. Per prima cosa vorrei imparare a parlare bene l'italiano, anche se un po' lo mastico, ma non è abbastanza per poter capire tante sfumature, ed è perciò vivere un rapporto in pieno e sono pronta ad affrontarlo, non è italiano ovviamente. Esiste un uomo che non è interessato solo a portare una donna a letto, ma a vivere un rapporto completo? Sono amante della famiglia. Vorrei incontrare un uomo attivo, indipendente, interessante, che ha il desiderio di creare un rapporto serio e completo, che è in grado ad insegnarmi a parlare bene l'italiano, che è difficile. Cominciamo! Dimenticavo, non credo nei rapporti a distanza e non cerco nessun tipo di gioco. Non avrei neanche il tempo da sprecare. Chi vuole, parliamone. E vi ricordo che ancora chiedo un aiuto a scrivere qui e parlare. Grazie della vostra pazienza. Anche se le donne sono la maggioranza degli utenti dei social networks e tra queste, secondo le stime, la fascia over 60 è in aumento, l'impostazione sessualmente stereotipata che questi offrono alla loro identità ed esperienza virtuali riporta le donne ad essere rappresentate e a vivere la rete non molto diversamente da come lo sono, da come vivono nella realtà. Quindi la domanda spontanea che mi viene allora è la seguente: quale novità reale offrono i social networks alle donne? Come nella realtà dobbiamo affinare la vista, saper guardare criticamente, cercare, scavare e condividere. E guardando meglio allora riusciamo a trovare quelle esperienze che utilizzano il web per diffondere la cultura che le donne hanno prodotto e producono, per svelare le menzogne della storia e affermare la verità dell'esistenza forte e libera delle donne. Ne citiamo solamente alcuni perché il panorama è veramente ampio. Citiamo per esempio Il paese delle donne online, già presente dal 1987, ed online dal 1995, che si occupa di informazione e linguaggio sessuato. La rete Lilith, archivio di documenti sulla memoria, la cultura, la politica, la ricerca delle donne. Il sito Storia delle donne, già presente dal 1994 al 2000, come Gopher Donna, sito di diffusione della ricerca storica delle e sulle donne. Il server Donne Associazione Orlando, che ha l'obiettivo di favorire lo scambio culturale tra donne e la creazione di relazioni e reti di comunicazione a livello nazionale e internazionale. Oppure siti come Scienza Due Voci, le donne nella scienza italiana dal 700 al 900, o Donne e Conoscenza Storica. Per non parlare poi di tutta quella rete di associazioni e organizzazioni nazionali e anche internazionali di donne che si muovono nel web per la difesa dei diritti delle donne di tutto il mondo. Insomma, un panorama ricco che può costituire un buon terreno di scambio per creare relazioni sempre più potenti, senza sottovalutare certo i nodi cruciali e problematici del fare cultura e politica insieme, che nemmeno il potente web, apparentemente asessuato, neutrale e libero, può far dimenticare. Sera molto strana, mi preparerò, poi uscirò, le frustrazioni te le do. Chino sopra gli alambicchi di ideali, non si vive più. vita fra la gente, il sogno di Danzica vivrò. E l'uomo di marmo come un piccolo fantasma apparirà davanti. Ed eccoci giunte alla nostra rubrica musicale. Allora, la canzone che abbiamo ascoltato, la prima canzone, si chiama This Old Heart of Mine di Diana Ross e delle Supremes, un gruppo vocale di donne afroamericane molto in voga negli Stati Uniti e non solo durante gli anni 60. Il loro repertorio includeva un po' di tutto, musica pop, soul, Broadway e disco. Pensate che all'apice del loro successo, a metà degli anni 60, i media cominciarono a parlare delle Supremes come addirittura le rivali dei Beatles, quanto a popolarità mondiale. La loro esperienza ha reso possibile per i futuri artisti R&B afroamericani di arrivare a un grosso successo discografico. La seconda canzone era Nobody's Wife, della cantante olandese pop rock Anouk, figlia peraltro di una cantante blues olandese. La canzone è uscita nel settembre del 97 ed è stata il suo secondo singolo, che poi l'ha consacrata come cantante di successo sia in Olanda che all'estero. Il suo ultimo album si intitola For Better or Worse e è uscito nel 2009. La terza canzone invece era di Annie DiFranco e si chiama Little Plastic Castle, piccolo castello di plastica, canzone che dà il nome poi all'omonimo album uscito nel 98 e che ha fatto invece conoscere Annie DiFranco in Italia. Per le canzoni italiane invece abbiamo ascoltato Sesso senza amore dell'attrice comica e cabarettista campana Rosalia Porcaro, nata a Casoria, provincia di Napoli. I suoi personaggi comici si ispirano alla quotidianità proletaria e verace e mettono in scena i difetti e le debolezze della nostra società. La canzone è stata presentata da Rosalia nella trasmissione di Rai 2 L'Ottavo Nano, attraverso il personaggio comico di Natascia, in cui peraltro l'attrice recitava la parte di una cantante neomelodica napoletana pronta a dare consigli sul sesso e sull'amore. E poi a seguire abbiamo ascoltato Donatella Rettore con Donatella, uscita nell'81 e sovrana assoluta dell'estate di quell'anno. È uno ska molto divertente questa canzone, ritmato e ballatissimo nelle discoteche, che tuttora viene ricordato come uno dei pochi esempi di ska, forse il primissimo italiano. Infine abbiamo ascoltato Una sera molto strana della cantante palermitana recentemente scomparsa Giuseppa Romeo, in arte Giuni Russo. La cantante, cresciuta in una famiglia in cui la musica lirica era l'incontrastata regina, era famosa per la sbalorditiva estensione vocale che le permetteva di unire quasi 5 ottave. Era in grado di unire quindi tecnica, originalità e sensibilità interpretativa fuori dal comune, tutte caratteristiche che l'hanno resa indubbiamente la figura più peculiare e interessante nel panorama musicale italiano e internazionale. Ora ricordiamo che tutte queste informazioni sono state prese dal sito Wikipedia e dal sito stesso di Giuni Russo, www.giunirusso.it. Siamo ai saluti. Ripetiamo il nostro indirizzo di posta dove potete inviare le vostre osservazioni, i vostri commenti sulla puntata: connettive@gmail.com. Ripeto, connettive@gmail.com. Ci risentiremo martedì 29 marzo. Ciao a tutte. Ciao. rough and I pushed away my plate. Said, boys, I've had enough.